America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti all'America 24 da New York, Mario Platero. In my speech to the General Assembly, I will call on world leaders to uphold their political and moral responsibilities to serve, to listen, to invest, to respond to the rising and justifiable demands of people across the world for lives of freedom and prosperity. Ban Ki-moon, segretario generale delle Nazioni Unite. Beh, perché vi parlo di Ban Ki-moon? Non che ci sia una notizia, diciamo, particolare dal punto di vista dell'ordine mondiale, ma perché vi ricorderete che qualche tempo fa vi ho raccontato che mi trovavo all'Hilton con il sindaco di Firenze, Nardella, e c'erano migliaia di giovani, di ragazzi che erano lì per partecipare a questa iniziativa delle Nazioni Unite, cioè UN Model. Bene, punto e a capo. Dopo pochi giorni mi è capitato di chiacchierare con dei ragazzi che invece non facevano parte di questi programmi, ma dei ragazzi all'università, dei ragazzi americani che avevano fatto alcune delle scuole migliori qui negli Stati Uniti, e mi sono accorto che c'era un'ignoranza spaventosa su quello che erano le Nazioni Unite. Allora, secondo me è molto importante parlare di questo per capire poi con che cosa abbiamo a che fare, perché sennò si improvvisano conversazioni, come dire, da bar. Questo me ne accorgo spesso anche su internet, dove ognuno dice qualche cosa ma poi dietro non ci sono i fatti. E allora approfitto di che cosa? Del fatto che la settimana scorsa, venerdì scorso per essere più precisi, sono tornati all'ONU 1800 ragazzi per partecipare di nuovo a un'edizione di questo UN Model Change the World. E chi è che ha fatto il discorso, il keynote speech a questi ragazzi? Letizia Moratti, e dunque un'italiana, che è con me ai microfoni di America 24. Buongiorno signora Moratti. Buongiorno, Trapatero, buongiorno a tutti. Allora, beh, vogliamo raccontare che cos'è l'ONU, come questi ragazzi lo vedono, perché se 1800 magari sanno com'è, ma ce ne sono milioni che non hanno la minima idea. Vogliamo svolgere un ruolo didattico? Certo, ma io credo che intanto bisogna iniziare, e quindi questa iniziativa dell'Associazione Italiana dei Diplomatici, a mio avviso, è importantissima, perché raccoglie da oltre 90 paesi ogni anno migliaia di ragazzi. L'anno scorso il tema era quello delle tecnologie, quest'anno il tema è legato a Expo, naturalmente, che aprirà tra pochi giorni, ed è molto interessante perché questi ragazzi vengono preparati prima, quindi studiano su come vengono prese le decisioni all'interno delle Nazioni Unite, quindi simulano il lavoro che viene fatto alle Nazioni Unite, il Consiglio di Sicurezza, l'Assemblea Generale. Vengono divisi in squadre, ognuna di loro rappresenta un paese, e dibattono e cercano di trovare quello che è sicuramente un punto importante dell'ONU, che è il consenso sulle maggiori problematiche che vengono discusse. Ecco, ricordandoci che all'ONU ogni paese ha un voto. Sì, nell'Assemblea Generale, esatto. Infatti, che rende l'ONU forte da quel esatto. punto di vista, perché, che posso dire, il Belize, che è un minuscolo paese del Centro America, certo, ha un voto uguale a quello degli Stati Uniti. Poi c'è il Consiglio di Sicurezza dell'ONU, dove ci sono a rotazione un certo numero di paesi, 15 paesi, con 5 membri permanenti, che sono poi le 5 grandi potenze. Ma questi ragazzi, venendo, si accorgono che, insomma, l'ONU non è soltanto questa grande burocrazia che molti descrivono, è un grande lavorio. Si accorgono che sul piano, diciamo, politico e tecnico possono fare delle cose, simulano quello che succede all'ONU. Per esempio, parliamo del problema alimentare, che poi lei ha lanciato, devo dire, è stata un'idea geniale, perché oggi non si parla d'altro, del problema dell'acqua, del problema dell'alimentazione. Ecco, come affrontano? Ci faccio un esempio di un problema concreto. Per esempio, tra i problemi che loro discuteranno in questi giorni c'è quello della malnutrizione. Ogni anno muoiono 2 milioni di bambini a causa della malnutrizione. C'è il problema dell'accesso all'acqua potabile. Più di 1 miliardo di persone non ha accesso all'acqua potabile. Quindi ci sono temi molto concreti, e l'auspicio è che questi giovani si sentano protagonisti, si sentano responsabili nella affrontare questi temi, nel ricercare le soluzioni, e che in qualche modo questo collegamento con Expo, che era stata proprio pensata per affrontare questi temi proprio nell'anno in cui vengono a scadenza quelli che sono chiamati Millennium Development Goals, che devono affrontare appunto il problema della fame, della povertà nel mondo, dell'eguaglianza di genere, della mortalità infantile, eccetera. Temi concreti da affrontare in maniera concreta. Ecco, questi ragazzi ovviamente lo hanno studiato, ma sono 1800. Domanda: tornando a quello che dicevo prima, come riusciamo a diffondere un po' più di cultura pratica del giorno per giorno? Perché oggi i ragazzi vanno sul computer, stanno su internet e credono di sapere tutto, in realtà le cose bisogna studiarle. Ecco, come passiamo da 1800 a avere un minimo, diciamo, di cultura di fondo di come funzionano certe istituzioni? Allora, io credo in tre modi. Scuola e università sicuramente sono molto importanti per diffondere questa cultura, diciamo, di tematiche internazionali che non sono sempre così dibattute nel nostro paese. I media hanno una grande importanza, le tecnologie in generale, e poi proprio in ambito Nazioni Unite c'è un inviato speciale del segretario generale Ban Ki-moon, che io ho incontrato la settimana scorsa, proprio sul tema dei giovani. Allora, una delle ipotesi sulle quali si sta lavorando è proprio quella di dare anche nell'ambito delle Nazioni Unite più voce ai giovani sulle tematiche che all'interno delle Nazioni Unite vengono discusse. Ecco, lei ha fatto il keynote speech, cioè il discorso centrale. Che emozione le ha dato di parlare davanti a 1800 giovani, che in fondo sono una promessa per il nostro futuro, e che cosa gli ha raccontato? Ma innanzitutto direi un grande senso di responsabilità, perché parlare appunto a questi giovani, che poi sono appunto i protagonisti del futuro. E sono di 60 paesi, sono comunque. Sì, più di 80 paesi. 80 quindi, paesi. E poi l'invito anche a considerare il tema del cibo, il tema dell'acqua, non solo dal punto di vista appunto dell'importanza della uguaglianza, della necessità di trovare un equilibrio tra l'uomo e il pianeta, quindi la necessità anche di pensare con un'ottica di lungo periodo, ma di vedere nel cibo anche un aspetto culturale, un aspetto legato alla tradizione, alla storia dei singoli paesi, dei singoli popoli. E ho concluso con un invito. Nel giorno in cui io ho ottenuto questo keynote speech, Carlo Petrini in Italia lanciava un'iniziativa alla quale anch'io ho aderito, che è quella di invitare giovani agricoltori, giovani contadini, giovani pescatori da tutto il mondo, quindi migliaia, a Milano nei primi giorni di ottobre, ospitarli nelle nostre case, quindi anch'io ne ospiterò nella mia casa, perché possano avere uno scambio culturale intenso, profondo, quindi possano non solo vivere Expo, ma vivere la vita delle nostre famiglie, portare la ricchezza della loro storia, delle loro tradizioni, e avere con noi uno scambio che possa fare in modo di far vivere Expo come un appuntamento legato alla fratellanza, alla solidarietà tra popoli, che è lo spirito vero di Expo, unitamente ai progetti di collaborazione internazionale che negli anni in cui appunto è nata Expo avevamo lanciato in tutto il mondo. Ci sarebbero mille altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che non vive più tempi difficili e resta pur sempre la nuova frontiera. Potrete continuare a trovarli su maria24.com. Seguitemi su Twitter, @MarioPlatero. Ed eccoci alla canzone del giorno. Beh, ancora con me ai microfoni di America 24, Letizia Moratti. Allora, signora Moratti, una canzone da lanciare oggi, magari in tema, cosa scegli? Cosa le viene in mente? Questa volta mi viene in mente Melanie Amaro, Respect. A Respect, beh, quindi un messaggio di incoraggiamento. Esatto, perfetto. Esatto. Melanie Amaro. A ritmo, va bene per i giovani. Ottimo, Melanie Amaro, Respect. Che è tutto, Mario Platero vi saluta e vi dà appuntamento a domani. Goodbye and get going. America 24.